Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Hai capito un bel? È il marchese Bellotti Spi. Ma davvero, proprio in persona? E chi se ne frega, non ce lo metti? Lo stimo e lo rispetto, perché se non fosse partito lui in Siria a combattere l'ISIS, forse stasera in redazione alla 7 avremmo qualcuno col burka e qualcuno col mitra in mano a decidere cosa si può dire e cosa non si può dire. Le sanzioni contro la Russia sono una follia. Salvini, no, scusi. E che se avessimo aspettato alla 7 qualcuno col mitra, col burka, la NATO o qualcun altro a combattere l'ISIS in Siria, l'ISIS ci sarebbe già arrivato in casa. Avete capito? Non so se avete capito, ma Salvini sta con Putin. Ha deciso che sta con Putin. C'è una foto bellissima che ho postato, bellissima, non per quello che è stato portato via dalla polizia, l'ho postata poco fa sul mio profilo Twitter Alino Milan, andate a vederla come arrestano i russi. C'è una testa che spunta tra le gambe dei poliziotti, così vengono portati via i manifestanti a braccia. Bombe atomiche. Caro presidente De Luca, caro chiattone. Onestà, onestà. Prova a urlare onestà, onestà in Russia. Onestà, onestà. No, di più, di più. Prova a dirlo un po' più forte. Russia, Mosca, sulla Piazza Rossa, sulla Krasnaya Plochad. Onestà, onestà. Lo so. L'Italia di oggi è veramente un grande circo, è questo. Questo un po' è vero, caro presidente. Noi stiamo affinando la conduzione 4.0 affidata a Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che condurrà presto 24 mattino, così. A volte mi viene voglia di prendermi la residenza in Svizzera, a Lugano. E come facciamo poi? La facciamo in streaming da lì, caro presidente? A Capoccia. Ci sono... No! Capocchia cos'è? Un paese della Svizzera o a minchia vuol dire? Ci sono 9 gradi a Merate, signori. Oggi è il giorno del 9. Eccolo qua, buongiorno da Lugano. Da Lugano, Roberto, preparatevi perché arriva De Luca. 6 gradi a Lugano. Mentre a Trissino forse, 5 gradi, siamo in provincia di Vicenza. E alba di un nuovo giorno, caro Riccardo. Salutiamo anche Dieng da Paese, è con noi anche oggi, evviva! 9 gradi e buona giornata da Alessia. Ho capito, Alessia, ma dove 9 gradi? Ci dici 9 gradi ma non ci dici la località. Alessia, qua manca, come dire, la cosa più importante. Rosciano Pescara e mi ha mandato due messaggi diversi, quindi non si può capire. E poi ad Argenta ci sono 4 gradi e mezzo ed è l'alba. Ciao da Luca. È certo l'alba, perché adesso tutti con l'ora legale è un disastro. È con noi L'Aurora Lussana, la vera alba che conta, l'Aurora, signori. Buongiorno Mila, ma sappi che l'Aurora arriva prima dell'alba. Vabbè, aspetta, ecco, che ti leggo la subito. Musica. Aspetta che c'ho su. Cosa c'è? Cosa c'è, Stafi? Cos'è? E c'ho su Vivaldi. C'è su il Vivaldi. Sì, che bello la mattina. Oh, che bello svegliarsi a casa Lussana con il Vivaldi. Sì, a Cantù 5 gradi comunque. A Cantù 5 gradi, signori. Fa frecce. Va bene. In Russia? Mettiamo la primavera, dai, Vivaldi, che così, così ci scaldiamo un po'. Grande inverno di Russia. Dai, ma quale repressione? È andato solo 15 euro di multa. Solo 15 giorni di carcere. Fateli tu 15 giorni di carcere a Mosca. A fare il modulo dell'ISET arrivano 1000 euro di multa. Lì 15 giorni di carcere, perché ha fatto un'inchiesta giornalistica dicendo che si sono comprati le ville, tra l'altro anche in Toscana, pare, gli oligarchi russi, quelli al potere, capisci? Dai. Pagati dalle centrali del potere finanziario globale. Eccola lì, l'altra che hanno leghista, sostenuto la crisi. L'altra leghista. Ma anche tu sei convinta che se non ci fosse stato Putin, che ne so, avremmo avuto qua le colleghe a Radio 24 col burka? Mamma mia, ragazzi, col burka qua le colleghe, perché è andato a liberarci in Siria. Va bene, signori, come vedete c'è da divertirsi con Aurora Lussana e vogliamo salutare anche il quasi omonimo, il nostro Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Buongiorno, come stai? Sono le 5. Sono le 5 e 35. Le 5.35 almeno. Che hai fatto? Hai messo avanti di un'ora e mezza tu. 5.35, sì. Esatto. Ci dobbiamo abituare. Signori, ma c'è un mito, un uomo che secondo me lo fa apposta. Dobbiamo aprire il Parlamento. Io non ci posso credere. No, ragazzi, no, se dai. Esce, mi prendo un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. No, dai, no, fa apposta. Lo fa apposta. Io non voglio credere che dica queste cose perché le pensa. Il ministro del lavoro Poletti. Purtroppo non c'è l'audio, lo dobbiamo scovare. È andato in una scuola di Bologna e davanti ai giovani, tutti quelli che puntano ad avere un posto di lavoro e che chiedono al ministro Poletti: come si fa ad avere un lavoro? Lei è il ministro del lavoro. A chi mando il curriculum? Giuliano Poletti ha detto: il rapporto di lavoro è un rapporto di fiducia. È per questo che lo si trova di più giocando a calcetto che mandando in giro un curriculum. No, dai, lo fa apposta. Io, dai, Rienzi lo fa apposta. Non voglio pensare che lo fa apposta, dai. Ogni tanto vuol fare una gaffe per far parlare di sé. Ma secondo me è proprio che lui non ci sta con la testa. Vabbè, no, adesso non esageriamo. Sì, vabbè, insomma, non in senso cattivo, però dire che si trova lavoro giocando a calcetto, poi perché a calcetto? A calcetto Balilla o a calcetto 5? Bisognerebbe chiedergli una specificazione. Perché si crea un rapporto di fiducia, in spogliatoio, conosci quello, conosci quell'altro. D'altronde, un po' questo è vero, in Italia è così, conosco uno, conosco il cugino dell'amico, l'amico dell'amico e così. Meglio iscriversi alla Niene, il circolo Niene, dove ci sono tutti i big, gli importanti, quelli che contano. Per esempio. Lì si fanno affari, si trova lavoro, clienti, lo sai, no? Potrebbe essere così. Ma la cosa della Niene, la cosa del calcetto, l'ha presi per il sedere a questi ragazzi. Dovete andare nei posti dove ci sono le lobby, dove ci sono quelli che contano, ci sono queste enclave dove si può andare e avere una possibilità. possibilità di trovare lavoro. Si sa, siamo il paese della raccomandazione, della spintarella, dell'amico dell'amico, del cugino, del parente e niente, i curricula, cara Aurora, puoi prenderli e stracciarli. Sì, no, ma non è che magari ho usato un po' di ironia, no, perché adesso No, voglio sperare, non lo so. Non lo so. No, è arrivata la marcia indietro in serata. Si strumentalizzano le mie frasi. Non volevo sminuire il valore del curriculum. Gli studenti hanno capito e condiviso le mie frasi. Vabbè, ma lui ormai. Vabbè, ormai no, è cupio di qualunque roba dice, non è più credibile. Progressi che ha. No, nel senso che anche magari se lui cerca di contestualizzare quella frase lì, nel senso che magari voleva anche criticare questa deriva un po' italica della non lo so, di che cosa? Dello spedire il curriculum, questa deriva italica del cercare il posto di lavoro dicendo so fare questo. Non lo so. Giocava a calcetto qualcuno. Buzzi, non lo so se Buzzi giocava a calcetto. Ma a parte che il calcetto mi mette tristezza. Perché... Oh mamma mia, pallavolo, no, dai! Mi piace il le femminucce e pallavolo, va bene lo stesso. No, ma nel senso che mi viene in mente sai la cultura del bomberista che c'è adesso. Sì. No, ma invece il calcio, cioè il maschio gioca a calcio. Il maschio gioca a calcio. Non so, Rienzi, Rienzi come ha trovato il posto di lavoro? Si è laureato? No, io... poi dopo... Ho fatto la pratica, noi diverso, la pratica. All'epoca c'era posto negli studi legali, quindi si trovava per fare pratiche, poi ero un po' bravino. Però devo dire che il fatto del curriculum serve poco, non è sbagliato. No, è vero. Sbagliato dire del calcetto, ma è vero che essendoci una grande domanda di lavoro e poca offerta. Se io guardassi veramente sul mio sito dello studio legale quanti curriculum mi arrivano, io li guardo per la verità perché noi poi li facciamo venire a lavorare al Codacons per fargli fare pratica. Imparare cose importanti. Tutte le cause che fa il Codacons sono le più importanti che ci sono poi nel nostro paese. Allora, questo però non si capire niente perché ne arrivano veramente a decine. No, ma su questo io capisco, cioè dal curriculum, da un foglio di carta uno non è che può capire se il posto di lavoro sei bravo. Ma qual è la media del Codacons? Cioè la media nel senso fra cause intentate e cause vinte? Non l'abbiamo fatta la domanda, media. La domanda però del secolo hai fatto, grande Aurora. Possiamo dire che la maggior parte ottengono un risultato anche se non vanno a termine, cioè escono sui giornali perché alcune sono davvero talmente strampalate che escono comunque. No, capire una media, una moda, una mediana, così è giusto per capire se fate un lavoro utile o no. La media è sicuramente positiva e superiore alla metà, però ti ripeto che l'altra metà ha risultato anche senza arrivare a destinazione, perché purtroppo le cause durano anni, quindi già il fatto di aprire un'inchiesta, di fare un esposto eccetera eccetera, noi riceviamo subito dopo le lettere del comune, del sindaco, dell'ente eccetera eccetera, che ci dice no, ma noi adesso veramente volevamo fare meglio, adesso ci impegniamo e quindi otteniamo dei risultati, perché c'è un po' una paura adesso della magistratura, siccome noi usiamo molto lo strumento loro non temono la magistratura, loro la sfidano. La sfidano. Vabbè, però allora sentite, ve la ricordate questa di Poletti, l'ultima che aveva fatto? No, se ne vadano, se ne stiano fuori dai piedi anche quelli che sono andati all'estero. Quelli che se ne vanno sono sempre i migliori. Se ne vanno 100.000, ce ne sono 60 milioni qui, sarebbe a dire che i 100.000 bravi e intelligenti se ne sono andati e quelli che sono rimasti qui sono tutti pistola. Permettetemi di contestare questa tesi. Io conosco gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata, perché sicuramente questo paese non soffrirà moltissimo a non averli più tra i piedi. Questi io ti giuro non ho ancora capito a chi si riferisce, però ha questa parlata romagnola che io adoro. Sì, quella è bella. Che quella veramente per me può dire tutte le minchiate che vuole, che io lo troverò sempre geniale il ministro Poletti, perché se lo farei parlare così per ore. Adesso sono Brianzolo. Sei Brianzola, come adesso sei Brianzola? Si parla a spiovere, ce ne abbiamo tanti. Oggi sul Corriere della Sera c'è questa cosa incredibile. Crepetto, quello che vedete sempre. Crepetto, con la Crepetto. Paolo Crepetto. In televisione, che è pagato dai gestori del gioco d'azzardo, ha osato dire in un tribunale che la ludopatia, la dipendenza dal gioco d'azzardo non esiste praticamente, non c'è una causa. No, ha detto che c'è il diritto al cercare il sogno. E quindi quando 1,5 milioni di persone praticamente sono disposte a ammazzare i genitori per trovare i soldi per andare a giocare d'azzardo nelle sale slot, quello è il diritto al sogno. Ma non è che giustificherà quelli. Posizione delinquenziale. Noi chiederemo la sua espulsione dall'ordine di non so che cosa. Ecco la causa del giorno, per esempio, vedi Aurora, questa è la causa del giorno. Oggi ce l'hanno contro Crepè, lo psichiatra. Tutti i ludopati che ci ascoltano li saluto calorosamente, ne conosco tante, che famiglia, un caro santo. Sognano, poi stanno sognando, loro hanno diritto al sogno secondo questo signore che è evidentemente ben pagato. Non parliamo con queste accuse. Di chi ti paga di più, questo è il punto. Andare in televisione a fare i proclami psichiatrici di qua, di là, i delitti, e poi dopo salutiamo lo psichiatra Paolo Crepè. Intanto ci sono 22 gradi, sai Aurora dove ci stanno ascoltando in questo momento? Jeddah, Arabia Saudita. C'è un ascoltatore della... vogliamo dire qualcosa? 22, vuoi ma dire si può ascoltare Radio 24 lì? Certo, con la app. In che senso? Perché? No, non so, magari bisogna ascoltare il Muezzin la mattina, mica Alessandro Milan. Non lo so. Noi salutiamo tutti gli amici dell'Arabia Saudita. Vuoi fare tu un saluto particolare a tutta l'Arabia Saudita, cara Aurora? L'Arabia Saudita sono quelli come si chiama? Quelli ricchi. Gli arabi sauditi sono quelli dell'Arabia Saudita. No, perché mi confondo, se io sotto il 46esimo parallelo faccio un po'. Per te sono tutti giargianesi. Hanno un botto di soldi. Tutti giargia, sono ricchi quelli. È vero che tu sei sposata, già però invece lì potresti trovare. Non ho mai guardato i soldi negli uomini, Milan. E cosa guardi negli uomini? Cosa guardi? altre doti. Quali doti guardi? Sono affascinata da altre doti nei maschi in generale, dei soldi da neanche. Quali doti? Non ti ho fatto una domanda complicata. Quali doti? La capacità di accudimento. La capacità? La donna sottomessa, donna sottomessa, insomma. Dicono queste cose, sa se le pensano. Ma non che so. Non vadano i soldi. Chi lo sa? Io mi fido, se Aurora mi dice così, io mi fido. Però non ho capito quali doti, l'accudimento, non so. Ma guardi che io faccio, cioè lo sa che mi sono trasferita dalla Bergamo. Lo sappiamo, a Cantù, sei in trasferta. Sì, sì, sono in trasferta qua. E non guarda i soldi. No, l'ho fatto per ci sono cose che mi sono per passione nella vita, né, Rienzi. Sì, tantissime donne, ma tantissimi anche uomini che ormai per bisogno non possono far altro che guardare i soldi. Sì, no, no. Certo, c'è da dire che per trasferirsi a Cantù bisogna davvero avere una grande passione. Bisogna essere privilegiati. Altrimenti la situazione è gravissima se uno non ha una passione per trasferirsi a Cantù. Vabbè, insomma, con le doti a cui fa riferimento misterioso Aurora Lussana, andiamo un attimo al traffico. Ciao Milan, fammi sentire il traffico. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. Buongiorno Milan, a me mi dicono chiattone e non mi offendo per niente. Gli rispondo perché voi siete invidiosi, perché siete pelle e ossa. E buona giornata. Pronto? Farmacia? Sì, Milan parlava di pillola di 5 giorni dopo, me ne dia uno, voglio arrivare a sabato. Lussana, di noi stupidat, va che Cantù è provincia di Como, le no Monza e Brianza. Como, non siete brianzoli, i sempardica si da com, e petita se bergamasca, le minga brianzolo il tuo uomo, di Como. Take me tonight, I'm a Io ho detto delle cose, a mio avviso, giuste, non utilizzando parole sbagliate. Napoli è una fogna. Secondo lei io sono una fogna? No, assolutamente. I napoletani sono una fogna? Assolutamente no. Ho sbagliato una sola cosa, guardi. L'utilizzo di un termine. Fogna. Tolto il termine, guardi, è innegabile. La sostanza è città criminale, sporca, inquinata, incivile. Mafiosa, corrotta, degradata, clientelare, parassitaria e incivile. Costui, caro Carlo Rienzi, sapete chi è? È il sindaco di Cantù. Intervistato dalle Iene, il sindaco di Aurora Lussana, che non è leghista, badate bene. Leghista, odia la Lega. Odia la Lega e odia anche Napoli, evidentemente. Odia tutti, odia il mondo. Ma sai cos'è? Io lo chiamo il Brevard della Casseola. Il Brevard della Casseola. Sì, povero, poi gli ho chiesto scusa a Napoli, ieri voleva dimettersi, oggi ci ha ripensato. Ha detto delle cose. Hai capito Rienzi cosa ha detto questo, il sindaco di Aurora Lussana di Napoli? Sì, ho capito. Fogna infernale. Insomma, mi pare che abbia sposato abbastanza le posizioni della Lega. Ma non lo so, si vede che lì a Cantù comunque anche se non sei della Lega. Poi Salvini si lamenta che va a Napoli, lo pigliano a pietrata. Ho capito, ma non è della Lega questo non è, anzi. I napoletani non è che distinguono. Quelli di Cantù non distinguono, come i napoletani non distinguono, continuiamo. Ma no, una vicenda patetica ormai. Cantù è deriso in tutta Italia per sto qua che ha fatto su sto show, però qua il Brevard della Cazzola te l'ho detto, adesso ho fatto marcia indietro, ho chiesto scusa a tutti e tanto fra due mesi si vota Cantù. Campagna elettorale, ma allora ti candidi a sindaco? E no, qua candidano l'Edgardo Arosio, che è uno bravo. L'Edgardo Arosio. Sì, bravissimo, competente. Che si chiama per tutta Italia Edgardo, ma l'Edgardo è L'apostrofo. Perché? Candidano lui qua. No, non lo ricandidano più, ma va, che giorno no. Questo qui che odia Napoli non l'hanno fatto fuori anche i suoi, non lo ricandidano più. Va bene, no, Rienzi. Il magistro si è fatto la querela. Ha detto, non so, uno normale a Cantù c'avevamo l'Aurora Lussana. Ma... No, che poi io almeno contro i napoletani avevo fatto il video lì per insegnargli a fare la raccolta differenziata. No, almeno dice un tutorial. Roba così, un'allegria in simpatia, ma se arrivi all'insulto così. Non va bene. Caro Rienzi, invece, politicamente cosa si muove? Cosa succede a Roma? Cosa fate voi del Codacons? Dimmi qualcosa. Per le firme? Noi ci occupiamo di ben altre cose e più importanti. Tipo, per esempio, questa denunciare Paolo Crepè, che è andato a ammazzare la gente che circolava di domenica. Vi siete chiesti come mai se la domenica è vietato la circolazione dei tir, quello stava là a ammazzare qualcuno? Ci sono i prefetti che hanno dato oltre 10.000 deroghe l'anno scorso. 10.000. E voi quindi chi denunciate? I prefetti? I tir? Quindi abbiamo impugnato la circolare del ministero dicendo che queste deroghe devono scomparire. Ma se uno deve portare, che ne so, medicinali urgenti, latte. Non c'è più niente che debba essere portato di domenica, perché viaggia tutto nei camion frigoriferi, compreso il pesce congelato, il pesce fresco. È proprio una fregatura che danno, perché c'è la lobby degli autotrasportatori che riesce a ottenere attraverso alcuni personaggi politici che stanno lì al Ministero dei Trasporti, ottenere queste deroghe che praticamente vanificano una delle poche certezze che avevamo, il fatto che la domenica non incontriamo in tiro sulle strade. Va bene, ringraziamo e salutiamo tutti gli autotrasportatori, categoria che ci segue con molta attenzione, ma ora ha una denuncia da parte del Codacons. Oh, mio papà, eh. È vero, il mitico papà dell'Aurora, che una volta scrisse un messaggio, ma non abbiamo mai capito fino in fondo se fosse un millantatore oppure davvero il papà dell'Aurora. Ma ci segue il papà dell'Aurora? ti segue in questo momento? No, starà scaricando, figurati se c'è tempo per ascoltare Milan. Adesso. Allora, signore, non circoli la domenica. Non, ecco, basta autotrasportatori, basta circolare domenica. Faremo una battaglia contro i prefetti e tutti i loro provvedimenti per farvi circolare. Esatto. Ma noi abbiamo iniziato da ieri e da oggi vogliamo proseguire una straordinaria nuova rubrica, perché noi, dopo lo psicologo di D'Alema, dopo il premio Giachetti, ora vogliamo introdurre anche una nuova analisi della politica approfondita, per la quale i nostri ospiti mi devono aiutare, perché io sono un po' in crisi da anni, ed è la rubrica Le metafore di Bersani. Signori, per me la metafora riesce, se fatta bene, a far capire con immediatezza un concetto anche magari non semplice a volte a tutti quanti. E questo l'abbiamo capito. Allora, ogni tanto vi riproporremo delle metafore di Bersani che a me fanno perdere il sonno da anni, tipo smacchiare il giaguaro. Un giaguaro io non l'ho mai visto smacchiato, insomma, non si spazzola un giaguaro, al limite lo si rincorre, non lo so, ma lo si prende raramente. Comunque io, ecco, per esempio, la metafora di oggi: se bevi l'acqua non devi dimenticarti di chi ha scavato il pozzo, perché la politica è anche portare avanti una fiaccola, no? Allora, aspetta, perché cioè, già l'acqua, il fuoco, la fiaccola, perché la fiaccola del pozzo si spegne. Cioè, se tu butti l'acqua sulla fiaccola, la fiaccola si spegne e fa fumo, peraltro. Era il fumo, voleva fare una canna. No, nel senso, vabbè, Aurora, mi aiuti tu? No, ma dai, rimanda al fatto che manca la riconoscenza in politica. Ha ragione, io la comprendo, la sua, mi piace. Bella. Sì, Rienzi. C'è una staffetta fra generazioni, ricordarci chi ci ha permesso di essere qua. Ah, bello. Cioè, se bevi l'acqua ti devi ricordare chi te l'ha... Ti ha fatto fatica per dartela. Ecco, lo diceva di Renzi, peraltro. Non di Rienzi, è di Renzi. Avvocato Rienzi, è questa. C'è una lettura... Più... Secondo me dobbiamo richiedere a Crozza che ricominci a fare le metafore di Bersani. Non lo so. Non vado da nessuna parte con le metafore. Ma perché tu, Milan, sei troppo metafisico, non metaforico. Noi gente piace. Del popolo, così alla Bersani, lo capiamo di più. Cioè, tu sei di uova e di latte. Noi gente della provincia, sì. Sei di uova e di latte. Va bene. Allora, no, niente, io vi ringrazio, mi avete aiutato, per esempio, e questo mi aveva fatto perdere mezz'oretta di sonno, perché c'ero arrivato anch'io poi la metafora. È che la fiaccola, una volta che c'era il pozzo e l'acqua, avevo capito, poi la fiaccola invece mi aveva un po' messo in crisi. Comunque, io vi ringrazio, Aurora Lussana, per essere stata con noi, così come Carlo Rienzi, presidente del Codacons, e vi do appuntamento alla prossima. Porco boia, ragazzi, io nel PD ci ho passato tutta la mia vita. Beh, certo. Sì, se io esco da qui, dove vado? Beh, magari non lo so. Posso mica fare la fine di Fascina, eh? Perché? Fascina adesso è i giardinetti? Coi piccioni che danno da mangiare a lui? Ma no, non è vero. Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milan. Anche quelli di Roma. E Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, eh? Perché? Che sti cazzo fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Signori, alle 7:18 minuti siamo qui alla lettura dei giornali, alla rassegna stampa di 24 mattino, con Peter Bescapè in regia, Lorenzo Nespoli in redazione, tra poco arriverà anche Elisabetta Fusconi in redazione, poi Oscar Giannino, ci siamo tutti, quasi al completo, siamo al completo. Allora andiamo, caro Peter. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo arrivati a martedì 28 marzo, anche marzo quasi se ne va. E allora, le aperture dei quotidiani, il Sole 24 Ore si concentra sugli Stati Uniti, il dollaro cade ai livelli pre-Trump, la valuta americana ai minimi da novembre, borse in calo, anche Piazza Affari che perde lo 0,32% ieri. Per il Corriere della Sera, lo scontro nel governo sulla scuola. Questo è il titolo. Scuola, scontro nel governo. Fedeli, cioè il ministro, dice servono 25.000 professori, ma il tesoro frena. Repubblica, il deficit. L'Unione Europea studia lo sconto da 5 miliardi.